English 24. Un saluto da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo un po' di cinema. In realtà lo facciamo parlando con un regista molto simpatico. Tra poco scopriremo anche da dove arriva, che ha girato una commedia molto brillante, molto divertente. Il titolo è Holy Water, cioè acqua santa. Ma l'acqua non è santa perché è benedetta. È santa perché c'è finito dentro un carico di qualcosa di molto prezioso. E tra poco scopriremo anche cosa è successo a quest'acqua. Il film Holy Water è da circa una settimana nelle sale italiane e noi abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare telefonicamente con il regista, Tom Reeve. Come è nata l'idea di questo film? Come gli è arrivata la sceneggiatura? Ce l'ha spiegato lui stesso. Okay, the script came to us as a what we would call a spec script. So someone had written it on their own, a guy called Michael O'Mahony. And I think the reason to make the film is very simple. It is a very funny story. And I think at any time, but particularly when times are difficult, the opportunity to escape the world for 100 minutes and have something to laugh at is always a good thing. On the film, there is a very long and very large disclaimer saying that Pfizer were not involved, and understandably, they take their work and their business very seriously, and the film is not serious, but at the same time, they did not stand in the way. E capiremo perché, tra poco, se qualcuno non l'avesse colto, c'è stata questa azienda che non ha impedito di realizzare il film. Ma andiamo per ordine. Intanto è una sceneggiatura che gli è arrivata sul tavolo. Probabilmente lui l'ha letta e ha detto sì. Perché? Che poi, tra l'altro, anche qui forse un piccolo false friend, nel senso che script, appunto, è la sceneggiatura, non è lo scritto e non è neanche il manoscritto, ma è proprio usato in gergo cinematografico per sceneggiatura. Ma questa è più che una sceneggiatura, è una spec script. E anche qui è proprio un termine che chi non è del settore non poteva conoscere. Io non avrei mai detto che voleva dire che poi spec è il diminutivo di speculative e sta per sceneggiatura concepita così, cioè da qualcuno a cui non è stata chiesta, a cui non è stato dato un libro da cui trarla, gli è venuta questa idea e poi, se è intraprendente, la manda. E così, dice il regista, it came to us, cioè è arrivata sul mio tavolo, però non era una cosa programmata, ma come spesso capita ai registi, probabilmente quello che ricevono tante sceneggiature cercano di scremarle perché non si sa mai da dove possa venire una buona idea, e questa era una buona idea. Una buona idea per una ragione molto semplice, era una storia molto divertente. Era una buona idea, quindi c'era the reason to make the film, cioè appunto c'era una ragione per fare il film. Very simple, it is a very funny story. E lui dice, a maggior ragione, at a time, but particularly, lui dice funny stories sono sempre benvenute, però at any time, quindi sempre, but particularly when times are difficult, quindi qui l'espressione at any time, che vuol dire in qualsiasi momento, non in qualsiasi tempo, e poi però when times are difficult, quando invece appunto i tempi sono difficili, specialmente come sappiamo un po' dal punto di vista economico, ci sentiamo tutti sotto questa cappa della grande crisi globale, e quindi adesso è importante ridere, fare un funny film. Qualcosa che ci faccia così distrarre un po' dalla vita quotidiana, anzi, come lui stesso dice, scappare dal mondo per circa 100 minuti, che è un'ottima durata per una commedia. Poi a un certo punto, lui dice, c'è un grande disclaimer. Ormai siamo abituati a questo termine. Sì, è proprio, credo che ormai non lo si traduca neanche più. Comunque, letteralmente è per scaricare la responsabilità. Quindi to claim è avere la responsabilità di qualcosa, to disclaim non averla. Perché? Perché Pfizer was not involved. Perché forse, come avrete capito in questa storia o l'avrete letto sui giornali, c'entra il famoso Viagra. E il Viagra è la medicina forse di maggior successo degli ultimi tempi, gli ultimi anni, ed è appunto prodotta dal colosso di Big Pharma, così si chiama in inglese il consesso delle grandi aziende farmaceutiche, che è la Pfizer. E così abbiamo capito perché quest'acqua era santa, perché ha qualcosa a che vedere con il Viagra. C'è una cosa molto importante che riguarda appunto la Pfizer: non erano coinvolte, quindi c'è questo disclaimer, però li hanno sostanzialmente lasciati lavorare. Sì, lui dice, fa una specie di elogio, di ringraziamento alla Pfizer, dice understandably, to understand, capire, understandable, comprensibile, understandably, comprensibilmente, quindi comprensibilmente they take their work and their business very seriously. Parliamo di un'azienda che fattura miliardi di euro in tutto il mondo, e quindi to take something seriously, prendono il loro lavoro è il loro business molto seriamente. Però, the film is not serious, il nostro film non è esattamente serio, però they did not stand in the way. To stand in the way, come in italiano, mettersi di mezzo, mettersi in mezzo, mettersi di traverso, quindi stare sulla strada di qualcuno letteralmente, cioè non ci hanno ostacolato. Ma dove è stato girato? We shot little bits in Ireland, but most of the film, the village in particular, was shot in southwest England. And the honest reason for that is, like all independent movies, we had to go where the tax deals and the subsidies were to make the film possible. But actually, my other answer to it is, if you go to Ireland, Ireland is a very, very pretty, very beautiful country, and why would anyone ever who lives there would want to leave it? Whereas England is rough and dirty and derelict, and it suited the look of the film much better. Well, you should tell from my accent I come from England, and therefore I knew where to find the old abandoned villages. So yes, I can only look across the Irish Sea and see how nice it is over there. È molto carino questo ragionamento. Il regista è inglese e lo dice, lo potete dire dal mio accento, chi capisce, chi comprende la finezza degli accenti, insomma, lui dice il mio accento, si capisce che sono inglese. Il film però è ambientato in Irlanda, ma fondamentalmente lui ha girato in Inghilterra per un paio di ragioni molto molto precise. Quindi lo dice, no? We shot little bits in Ireland. Shoot, l'abbiamo visto anche la scorsa volta, è filmare, sparare, ma anche filmare, quindi piccoli pezzettini in Ireland e poi il resto in inglese. E poi dice the honest reason for that, cioè onestamente la vera ragione è che, like all independent movies, we had to go, abbiamo dovuto andare, where the tax deal and the subsidies were. Anche in Italia ci sono dei luoghi, e poi ci sono le famose film commission, la Marta sa tutto, che danno anche queste facilitazioni fiscali. Quindi siamo andati lì dove c'era il tax deal, l'accordo fiscale e i subsidies e i sussidi migliori, perché noi siamo indipendenti e questo ha fatto sì che to make the film possible, altrimenti non sarebbe stato possible fare il film. E la seconda ragione è molto generosa nei confronti degli irlandesi invece. Sì, insomma, da inglese, come sempre, no? Chi è italiano si sente in diritto di criticare l'Italia, magari invece ci arrabbiamo quando lo fanno gli altri, quindi lui dice, io sono inglese, quindi dico che la whereas England è rough, dirty, derelict, quindi dura, sporca e derelitta, invece Ireland is a very pretty and beautiful country. Addirittura dice, why would anyone who lives there ever want to leave it? Quindi to lives there, qui chi ci vive, why would ever want to leave, sa andarsene, quindi chi ci vive non dovrebbe mai andarsene. Anzi, lo dice, noi quando vogliamo vedere qualcosa di bello basta che guardiamo al mare e sappiamo che dall'altra parte c'è l'Irlanda. E qui c'è un uso interessante di across, notatelo, perché across vuol dire attraverso, però bisogna usarlo solo quando noi guardiamo attraverso ma non stiamo attraversando qualcosa. In quel senso, in quel caso dovremmo dire through, per esempio to go through a tunnel, andare attraverso un tunnel, ma non across, perché across appunto è attraverso ma senza attraversare. È una piccola sottigliezza, però di quelle che citiamo spesso, che fanno capire quanto bene maneggiamo l'inglese. Era preoccupato il regista delle reazioni in Italia? Sentiamo. Although making the film, of course, I thought I was doing a wonderful piece of work, but coming here and seeing the reaction, and such a positive reaction to the film, starting with, of course, Angelo Bassi and when he picked up the film for distribution here, is somehow, I think, because of the obvious religious undertones of the film, Ireland, Catholic country, Catholic village, the priest, confession, the fact that two of our heroes disguise themselves very badly as nuns for the hijacking. I think also here in Italy you have a wonderful confidence about yourselves, and you are also able to enjoy and laugh at some parts of the film and its references to the religious background, I think. Sono molte similitudini tra l'Irlanda e l'Italia, a quanto vede il regista, il nostro Tom Reeve, e effettivamente molte di queste analogie hanno a che fare con la Chiesa, che viene un po' per alcuni versi presa di mira da questo film. Però gli italiani vengono fuori bene da questo discorso di Reeve. Sì, lui dice, contento. Dice, insomma, quasi un po' sorpreso, no? Perché da questa positive reaction, such a positive reaction, perché tutto sommato con questo Catholic country, Catholic village, the priest, confession, tutto questo background cattolico che c'è, quello che lui chiama i obvious religious undertones of the film, quindi tutti un po' i sottotesti, chiamiamoli, traduciamo in italiano, del film, in un paese molto cattolico come l'Italia. Eppure, lui dice, alla fine, positive reaction. Ovviamente il primo ad aver avuto una reazione positiva è colui il quale ha portato in Italia il film, e ovviamente ci tiene a ringraziare Angelo Bassi, che ha scelto il film. Addirittura to pick up, quindi proprio pick vuol dire scegliere, però a volte sappiamo che non sono proprio phrasal verbs quando vediamo la particella, ma la particella ha un senso rafforzativo, quindi l'ha proprio tirato fuori, scelto fuori. E to pick naturalmente vuol dire anche prendere le mele da un albero, quindi l'ha proprio preso da quella enorme offerta di film che hanno i distributori e ha deciso: questo lo distribuisco. Quindi il primo italiano dalla reazione positiva, colui il quale ha deciso di portarlo in Italia, ma anche tutti gli altri, anche di fronte alle scene più comiche. A un certo punto questi signori barbuti con un bizzarro travestimento. E lui lo dice, appunto, questi nostri heroes, gli heroes del film, disguise themselves very badly as nouns, quindi to disguise oneself vuol dire travestirsi da, quindi to disguise as, riflessivo, però questi lo fanno molto male, very badly, quindi appunto risulta poi naturalmente una caricatura delle suore. You must have a wonderful confidence in yourselves, quindi voi come italiani dovete avere questa fantastica sicurezza di voi per potervi prendere in giro. Questo Holy Water è il film di cui abbiamo parlato questa sera nella nostra puntata di English 24, che si conclude qui. Io ringrazio Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo il nostro English 24 sempre in edicola, ma vi ricordo anche che vi dovete assolutamente iscrivere alla nostra pagina Facebook di English 24. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.